Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. İtabella'da aslında bu hafta başka bir program yapmak niyetindeydim. Ama geçirdiğimiz haftadaki malum kara bulutlar ve savaş karşıtı İtalyanca şarkılar çalmak istedim. İtalya'da her zaman savaşa karşı duran bir halk coşkusu demek istiyorum var ve bunu onlarca şarkıda duyabiliyorsunuz. Bu şarkıların bazıları bugün İtabella'da olacak. Şimdi önce Rena Gaetano ile başlayacağız. Her biri 5 dakika boyunca kendi hikayesini anlatan tüm kadınlardır diyor Ayda için Gaetano. Ve neden bu ismi tercih ettiği de muhtemelen Verdi'nin Süveyş kanalının açılması için yazdığı eserdeki Prenses Ayda'ya atıftan mütevelli oluyor. Fakat bu parçadaki görüntüler ve sembollerle sürülen iz aslında İtalyan savaş tarihine, faşizme, diktatörlüğe ve yoksulluğa dair bize çok fazla fikir veriyor. Ama aynı zamanda Ayda İtalya'yı temsil ediyor. Güzel bir kadın. Ayda, come sei bella. Ayda ne kadar da güzelsin diyen, hem öfkeli hem de tutkulu bir ironiyle devam eden bu parça, geçtiğimiz haftanın sonundaki kakafonide dünyaya gözlerini aniden açmaya karar veren benim en küçük arkadaşım Ayda'ya da iyi ki geldin demek için olsun. Rino Gaetano Ayda'yla şimdi Açık Radyo'da. Spogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari e alala, i suoi vestiti lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto e poi l'Egitto e un'altra età. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Aida, come sei bella. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. La democrazia e chi ce l'ha? E poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.

Biz şimdi ileriki dönemde Marco Valdo tarafından Le Pourquoi de la Guerre adıyla Fransızcası da yayınlanan bir parçasını dinleyeceğiz. Ve şöyle başlıyor parça. Sana bunun senin kutsal görevin olduğunu öğretmeye başlarlar. Vatanı savunmak, sınırları savunmak okulda öğretilir. Müfredat bunu söyler. Perché una guerra'yı Fausto Amadei'den dinliyoruz. Cominciano a insegnarti che è tuo sacro dovere difendere la patria, difendere le frontiere. Lo insegnano alla scuola, lo dice il sillabario, lo recitano tutti a guisa di rosario. È tuo sacro dovere, devi esserne entusiasta, se non ci credi sei castrato pederasta. Non crederci vuol dire non solo essere vili, ma anche essere privi di organi virili. A volte viene il giorno che non c'è più guadagno e che l'economia è in fase di ristagno, che quel che si produce non trova più acquirenti o che i lavoratori sono troppo esigenti. A volte viene il giorno che per l'economia la guerra dà il rimedio migliore che ci sia. Vivifica l'industria, zittisce i sindacati, tien sul prodotto lordo e crea nuovi mercati. Padroni e governanti, in men che non ti dico, si mettono d'accordo su chi sarà il nemico. Importa poco niente che sia razza inferiore o gente bellicosa di un altro colore, oppure dei selvaggi da rendere civili. Importa che si espanda l'industria dei fucili, l'industria dei cannoni, famosa vacca grassa, che dà commesse ben pagate, pronta cassa. E quelli che non vogliono credere un dovere, difendere la patria in armi alle frontiere, son dichiarati in blocco, vigliacchi traditori, son tutti messi dentro, meglio fatti fuori. O scegli di crepare al fronte, sei scarogna, oppure crepi a casa, di certo e con vergogna. Le guerre dei padroni non son facoltative, l'hai da far con le buone oppure con le cattive. Lo Stato e i padroni forniscono tutto quanto, la banda alla stazione, le patronesse in pianto, dei corsi accelerati che danno in pochi giorni, un titolo che serve in caso che tu torni. Il cioccolato, il cognac, bordelli a buon mercato e mucchi di discorsi e frasi di commiato. Il codice di guerra, la corte militare, il carcere e la bara, chi non ci vuol stare. Lo Stato e i padroni non sono più taccagni, perché la guerra rende splendidi guadagni. E questi investimenti saranno a tempi lunghi, ma i tassi di interesse crescono come funghi. E poi la Santa Chiesa, mi par senza eccezioni, ha sempre garantito le sue benedizioni. Ha sempre garantito, da quando storia è storia, che il Padre Eterno vuol lui pure la vittoria. Partono i soldati e vanno tutti in fila, in marcia verso il fronte a mille, a centomila. E tornano i soldati, ma sono molti meno di quanti eran partiti su quel lungo treno. È già una gran fortuna almeno esser tornati, anche se si è rimasti feriti e mutilati. È già ben fortunato chi a casa può tornare, e invece tanta gente non lo può più fare. Che tutta questa strage non sia servita a niente, è duro da capir per tutta quella gente, per tutta quella gente che grazie a sto macello ha perso un fidanzato, un padre o un fratello. per tutta quella gente che ha pur pagato un prezzo, anche se ci ha rimesso soltanto qualche pezzo. È duro da capire che tutto è capitato solo perché l'industria aumenti il fatturato. Allora ecco lo stato dei ricchi farsi avanti a distribuir diplomi di martiri e di santi, a dare le medaglie e a fare monumenti perché tutti i superstiti siano contenti, convinti d'aver fatto un nobile dovere e non d'essere stati presi per il sedere, finché c'è chi è persuaso che occorre essere eroi, quel che era stato prima si ripete poi. Si ribadisce infatti che è tuo sacro dovere difendere la patria in armi alle frontiere, finché l'economia per superare il tedio non trovi in altre guerre il solito rimedio. È un circolo vizioso che non tende a finire finché tu non vorrai sforzarti di capire la verità, che è questa, che il tuo vero nemico marcia alla tua testa. È un circolo vizioso che non tende a finire finché tu non vorrai sforzarti di capire la verità, che è questa, che il tuo vero nemico marcia alla tua testa. Fausto Amadei'den dinledik. Berke Una Guerra. İtalya'da Eylül ayı sonu Ekim başı gibi bir dönemde Perugia'dan Assisi'ye yaklaşık 24 kilometrelik bir geleneksel barış yürüyüşü düzenlenir. Bu yürüyüş İtalyan pasifist hareketinin bir manifestosudur. En son 2021 Ekim'inde 21.si yapılan barış yürüyüşü takribi her 2-3 yılda bir gerçekleşmektedir. İlk yürüyüş 24 Eylül 1961 Pazar günü Aldo Capitini'nin girişimiyle gerçekleşiyor. Andrea Gagera, Giovanni Arpino ve Italo Calvino bu yürüyüşün ön saflarındalardı. Halklar arasında barış ve kardeşlik için temasıyla yapılan bu ilk yürüyüşte Fausto Amadei ve Franco Fortini tarafından doğaçlama olarak Barış Marşı icra edildi. Bu parça daha sonra 60'lı ve 70'li yıllarda çeşitli politik ve feminist albümlerle nam salan Maria Monti'nin 1964 yılında yayınladığı Le Canzoni del No, Hayırların Şarkıları albümünde kendine yer buldu. Buldu ama bu sebeple de tüm İtalya'da bu albüm toplatıldı. Şimdi Maria Monti'den dinliyoruz. Canzone della Marcia della Pace, Barış Yürüyüşü'nün şarkısı Açık Radyo'da. E se Berlino chiama, ditele che si impicchi. Crepare per i ricchi, crepare per i ricchi. E se Berlino chiama, ditele che si impicchi. Crepare per i ricchi, no, non ci garba più, no, non ci garba più. E se la NATO chiama, ditele che ripassi. Lo sanno pure i sassi, lo sanno pure i sassi. E se la NATO chiama, ditele che ripassi. Lo sanno pure i sassi, non ci si crede più, non ci si crede più. Se la ragazza chiama, non fatela aspettare. Servizio militare, servizio militare. Se la ragazza chiama, non fatela aspettare. Servizio militare, solo con lei farò, solo con lei farò. E se la patria chiama, lasciatela chiamare. Oltre le Alpi e il mare, oltre le Alpi e il mare. E se la patria chiama, lasciatela chiamare. Oltre le Alpi e il mare, un'altra patria c'è, un'altra patria c'è. E se la patria chiede di offrirgli la tua vita, rispondi che la vita, rispondi che la vita. E se la patria chiede di offrirgli la tua vita, rispondi che la vita per ora serve a te, per ora serve a te. Maria Monti'dan dinledik, Canzona dalla Marcia dalla Pace. Şimdi, Metni Franco Miliacci'ye, müziği Mario Lucini'ye ait bir parça dinleyeceğiz. Gianni Morandi tarafından 1966 yılında single olarak yayınlanıyor ve yorumlanıyor. Şarkı müziği seven ve gitar çalan Amerikalı bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Ama bu kaygısız gençliği orduya çağrıldığı bir mektupla sekteye uğruyor. Vietnam Savaşı'nda savaşmak için evinden ayrılıyor ve sonunda bu savaşta ölüyor. Bu daha önce aşk baladları ve gençlik ve kaygısız şarkılarla sınırlı olan Gianni Morandi'nin ilk kararlı bir derdi olan şarkısı aynı zamanda. Plak şirketinin tüm şüpheci yaklaşımına rağmen derhal çok büyük bir başarı getiriyor ve hızla İtalyan anti-militarist şarkılar repertuarında kendine kalıcı bir yer ediniyor. Artık saçları uzun değil, artık gitar çalmıyor ama her zaman aynı ta ta ta ta ta notasını veren bir enstrümanı var. 1944 doğumlu müzisyenden canlı bir kayıtla dinliyoruz. C'era una ragazzo che come me. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne. Se cantava Help, Ticket to Ride o Lady Jane o Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop. M'han detto va nel Vietnam e spara il Vietnam. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop.

Edoardo Benato'dan dinledik. A cosa serve la guerra? Şimdi sırada Francesco Guccini var. Guccini korkunç namıyla bilinen Nazi imha kampında ölen anonim bir çocuğun korkunç ve sembolik hikayesini anlatıyor sıradaki parçada bize. Ama Guccini'nin kendisinin Nazizmi kınamakla sınırlamadığı, kınamasını her nevi savaşa genişlettiği ve muhtemelen kendi dönemindeki en çarpıcı savaşlardan biri olan Vietnam'daki savaşın trajedisine atıfta bulunduğu bir parça bu. Kısa cümleler, kolay tekerlemeler, dolambaçsız, dümdüz bir metin. Şöyle başlıyor. Bir 100 kişiyle daha beraber öldüm. Daha çocukken öldüm. Bacadan geçtim ve şimdi rüzgardayım. İnsan öldürmeden yaşamayı ne zaman öğrenebilecek ve bu rüzgar ne zaman dinecek diye soruyorum. 1940 Modena doğumlu Francesco Guccini'yi Nomadi ile birlikte 1979 yılında yaptıkları bir konser düetinden dinliyoruz. Auschwitz şimdi Açık Radyo'da. Ho morto con altri 100, son morto, ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento. E adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno. E adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Bestia umana che ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a

solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Francesco De Gregori'den dinledik Generale. İtalyan müzik sahnesinin savaş sonrası dönem kahramanlarından belki de en kendine müstesna olanı Enzo Iannacci bir savaş karşıtı parçayla şimdi Itabella'da olacak. 24 Mart pazar sabahı 1. Dünya Savaşı'ndayken uyanan bir askeri anlatıyor bu parça. 1967'de yayınlanan Vengo Anch'io No Tuno albümünde kendine yer bulan Domenica 24 Marzo'yla Enzo Iannacci şimdi Itabella'da. Domenica 24 Marzo, che mi ero svegliato prima io, lì fuori cantava ancora il cannone, di dentro per me la guerra finiva. In pochi minuti già in trincea, comincia a usare me parna cavera, partito tutto un caricatore. Un tenente con la sua bandiera. Come si fa a dirci? Che messeri stracca, arriscia la pelle per dopo portarla a ca, a ca. Come si fa a dirci che non c'ho neanche vergogna, vergogna. Senti in divigliac anche dai me compagni. Domenica 24 marzo, che mi ero svegliato prima io. Per aria nanca cinghei di sole, concluso sì il mio avvenire. Come si fa a dirci? Enzo Iannacci, Domenica 24 Mart'soyla İtabella'daydı. Sırada 28 yaşında çok erkenden dünyadan gitmeyi kendi istese de başkalarının ölümüne, hele ki savaşarak ölmesine pek de sessiz kalmadığı bir şarkıyla 1938 doğumlu Luigi Tenco var. Ecce Diranno parçasında şöyle diyor: bize deseler ki savaş yoluyla en iyiyi seçmenin dünyanın kaderi olduğunu ve artık en güçlülerin her zaman ilk ölenler olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Onlara cevap vereceğiz. Onlara cevap vereceğiz. Hayır, hayır, hayır diyeceğiz. Luigi Tenco, Ecce Diranno ile şimdi İtabella'da. Se ci diranno che per rifare il mondo c'è un mucchio di gente da mandare a fondo, noi che abbiamo troppe volte visto ammazzare per poi dire troppo tardi che è stato un errore, noi risponderemo, noi risponderemo. La gente o la pensa in un modo o non vale niente, noi che non abbiamo finito ancora di contare quelli che il fanatismo ha fatto eliminare, noi risponderemo, noi risponderemo. Chi difende la gente di un altro colore, noi che abbiamo visto gente con la pelle chiara fare cose di cui ci dovremmo vergognare, noi risponderemo, noi risponderemo. Della terra selezionare i migliori attraverso la guerra, noi che ormai sappiamo bene che i più forti sono sempre stati i primi a finir morti, noi risponderemo, noi risponderemo. Luigi Tenco, Ecce Diranno ile Açık Radyo'daydı. 1950 yılında Bologna'da hayata gözlerini açıp, yine 2018'de Bologna'da hayata gözlerini yuman Claudio Lolli var sırada. İtalya'nın en kararlı şarkı yazarlarından biri olarak kabul edilen Lolli, siyasi temalara çekinmeden şarkılarında yer veren, 30 yıllık bir süre içinde yaklaşık 20 albüm kaydederken, insanoğlunun en derin temalarını ele almayı başardı. Her savaşın meçhul yitik askerlerine adanmış sıradaki Claudio Lolli parçası şöyle başlıyor. Seni gitmeye kimin ittiğini biliyorum. Ve bu bir zafer arzusu değildi. Ölmek ya da tarihe bir hatıra bırakmak istemediğini biliyorum. Ben Cansın Sayesen. Bu hafta İtabella'da savaş karşıtı şarkılar vardı. Şimdi Claudio Lolli'nin Alle Milite Ignatos'u ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. lo so chi ti spinse a partire, e non fu desiderio di gloria. Io lo so, non volevi morire, né lasciare un ricordo alla storia. Io lo so chi ti venne a cercare, fin sui campi, fin dentro un cortile. Io lo so, non ci fu da parlare con chi aveva in mano un fucile. Io lo so chi ti guardò partire, sorseggiando un bicchiere di vino. Fu lo stesso che poi venne a dire che eri felice come un bambino. Ma io lo so che non era affar tuo, che non era la tua quella guerra. E del resto, cos'è che era tuo? Certo, neanche quel pezzo di terra. Hanno scelto la terra più triste, quella che era costata più cara, quella in cui a migliaia cadeste, che vi accolse e vi fece da bara. Hanno scelto la terra più rossa, quella che era costata più vite, ed un corpo in cui solo le ossa circondassero ormai le ferite. Lo hanno offerto a una patria impazzita che sfogasse così il suo dolore. Han pagato i tuoi anni di vita con un grande anonimo onore. Così oggi sei un milite ignoto, morto in guerra nessuno sa come. Dopo averci lasciato la pelle, ci hai rimesso per sempre anche il nome. Ma non sarai certo ignoto ai compagni che con te avranno lavorato. Non sarai certo ignoto alla donna che ti avrà ogni notte aspettato. No, non sarai certo ignoto agli amici che ti avranno dedicato le sere e il ricordo dei tempi felici in cui potevano offrirti da bere. Come sei invece ignoto a quelli per cui tutto ciò è stato un affare, che cantando siamo tutti fratelli, ti ricordano che torno a Natale. Come sei certo ignoto alle mani di quel vivo illustre da bene, che verrà a sputare domani altri fiori sulle tue catene.